Caporetto 1917. L'LD di Mort. Alleger. Sunada. Quasi una fantasia. Alla signora Elisabetta Pitscheider Keller. Turni da Vial Certusa. Turni di cimiteri. In mesa a un sume neri de ciucate che vusa, de barache che canta e che giubiana in santa pas, con de brash la tusa. L'eldi di mort, alleger! Sote i tupiet se bala, se rid e se bucala, passen i tramchi in neger, de chi che turna ca, per magna, bucala, sciger e tempia, alleger fiei che sem futù. I noster patatuc a furia de traiciuc de ciapai per il cu de mandai a cabusca man buta via la rusca scalcen a sal de cu scapen sti sacradio mole nel mas me disen mole ni arma slisen de tutti part el zio me la petain del gnabel lung quater span e stabel. L'eldi di mort ed io. Passen i tram chi neger, gen sura gent, lingera, tusan e banc de fera. Oi bei curon! Alleger! Oi bei lumi! Oi pissi, le belle tende, oi pissi, l'eldi di mort, alleger. E già, con sta misulta de Luca Brigadella, canta alla loi bella, o macchinista, ferma il diretto, perché al distretto me tu candà. Questa le buona, ascolta. Stacca la macchina, ferma il diretto, che son costretto d'andà soldà. A furia de batost tirum là. Caldarost! E giò vers porta volta, adre con stu mishmash de ciuc che se balanza. Te vedet, non me vansa più che i noster quate strash, l'eredità le andada, se m'imbuleta in strada, turnem a fai paiash. Comincia ad asi, a vegni sera, e là cantenamò d'atra. Che al mio paese voglio tornare il mio cuore. Già vers Milan le quasi scur, runge e semineri, navili e cimiteri, suden ad asi, umed e nebbia. Utuber, cucuber, pover nun, vum per vum, vum per vum, me per tegeni ruger. Oh Gesù, che sbiutada de piant, che per tegada lassù. Utuber, cucuber, turinese giulitian, milanese socialista, courage, courage, lustrev la vista. Tu nid de San Damian slargheve il cœur, in chi turnai tu disc, in chi riven chi carpatan, chi carbarbis, chi ros de queen, astunderà per i bang della fera. Pavani e pensi ai nost miseri. Rogn, te slipa e generai de pipa. E quel dì, Caldarost, Caldarost, e quel dì, vedi, Madonna, do tre settimane mo, che in piazza o forse lì dal briosc, te sentì? Mi diran, te sentì? Riven, Gesem, in chi, molen di par de bresa, riven, in avestun de desensan gardun, scapen, car al metesa, stem doca, e mi deslons, fera, l'insci, denons del campari geressa, piena la galleria, gen che rebuta, duque vusa, apen del cuve minons, san se sia mans futu, non bisogna cedere, gen che rogna, gen che insiga su ta via, che rebuia e che baia, balengo, ruchetun, vasco, batabastiun, vardela la lucaia, che l'è sbutida di beuc, fera in piassa, l'inec, cudaria, rasa, paia, fera fa festa al zio, silenzio, silenzio, taia, taia, sentela la lucaia, che se scadena, io, mao, meo, mio, ei, mio, mao, ma, tira il piat, mucela, ciculat, ma silenzio, per Dio, cito, dai amesati, leggen a una finestra il bulletin. A destra del Brenta, incendiati i depositi, in dura lotta, nella pianura, ci siamo ripiegati. Te sentet? Ripiegati. Silenzio. Cupet. Faccia de chiude cande caccia. Coi reparti alleati, bunque los. Ma tralasci i suoi commenti e lasci terminare. E schierati combattendo fra Po ed Adige sul Mincio, secondo i piani, Crincio, Tellido Ingemo, sul Mincio, propi, abbiamo, cosa l'ha dit? Abbiamo, e peu? Se capis no, l'ha dit evacuato. Cos'è? Mo, ad occidente abbiamo nettamente respinto. Evacuato piuttosto. In nostre mani, tut bal, aeroplani, Geveralter, firmato, Cadorna. Bulletum, bulletum, vascundet, brut malan, e cascem più de can. Se senge mol canun, fera dei dassi. Lei, non si vergogna lei? De cos'è? Del canun, segura. Del canun che se sent. Allarmista, Napoli, disfattista, valto paese, rognun de fidic. Aria, via, via. Lei, venga con me, lei. Mi con lui, lei il padron del vapor, lui. D'atra, oi, el ver menam su, el ver. Ma chi l'è, lui, chi l'è? Lascialandà, scemo, Napoli, rinnegato, le vim del comitato, dai, che l'è un sciat, sa, oi, lascialandà. Gio, peste gio, italiani senza patria, a domani. Duman, sì, specia, bu, lobbia. Valto paese, o Cristo d'un milanese arius, va di gaitò, can sbaglia il prim butun. Tirini nons, la guerra per cupam, tramintera, eccola la resun. Ma scambroni, l'eura de finila, in malura mantra. Rivoluzion, sì, rivoluzion. Avanti, o popolo! Alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Signor, signor, deslipa, rogn e generai de pipa, ve ma toche bucon, rivoluzion, verde, car signor, compagnie, chide per lur. Bandiera rossa la s'innalzerà, bandiera rossa della libertà. Canzon de guerra, della trista guerra. Sì, sì, bandera russa de tem de fera, anarchic socialista, sì, che gesem leura, sbraghe, scarpev la gura, alon, lustrev la vista, slargheve il cœur, gesem. Entra tanta che di per di per di, dura in ura andarem giò, a poc, tutin d'un muce toc, e bucon a patrem, che sulla Madunina, bandiera rossa, lassù, la s'inalzerà. E che faran tunina per i ca, per i stra, per i pias, ancupa l'Arbertin, stamattina, viva nun! L'antra là più impesciad, l'et vurida la guerra, porco Giuda. Dai, dai, sassad, ganfa fa l'amor del prina. Entra tanta che se cupa e se canta, te lì comincerà per Milan la passada di Legur. Un mishmash, un meschios, un much destrash, gen stremida, sbiutada e che in fuga i croat van a sbat i sos su una strada. Paisan, can la salà, terra, vaca, roi e se rusen, ma doi ne pospù, carega come mui, cui fiui e la donna, o tanu, scià, niemen. E sul da, in filera trista, in filera grisa, taglia la corda, slisa, fem società, bandiera rossa, sì, sì, e il canun che il bruntola, e il canun che rogna in la scighera. Sculta, sculta, vers Melegnon, gigena i boc col zio, riven stavolta, e diu, vengen su de Drison, passen a Mudiglia, Culturan, Sandunà, passen là da Cassan. Salta il pun de Paderno, brusa stabiliment, ca, gent che sgara, gent che se calca, e l'inverno, la nebbia, fera, fera, eruplan che sgöra, bum che sciopa, un inferno, fera, fera, scapem. E me pader che bala per ca, ma custe calan camò. Vemus tem, segno. Ciao, ciao, dammi sent. Va, var di là, va, che in là. Ghe più niente, medden, presto, andem, sarà su, due te ve, Clara, la macchinetta del spirit, due le. Petta, petta, te la chi, custe ghede, medden, tancamo, questi chi? Quai? Ti chi? Ancora questi chi? Se cano, lascia sta. Se te ghede dalla banca, va, c'ha pa temp. Va alla banca piuttosto, va, le più ranca un tuffia quell'om, laica sed, gin la tuc del succeruto, in muc, ai spurtei, firma, c'ha stu libret, la ciaveta d'erva, e fe, 5%, cartel, pusad, argent, triemes, e in pacchetta, liga, e qui della Lina, e qui della Siangelina, e qui dell'Ermignetta, gu piena la cassetta de roba di alter, cos'en fu? Dever alter chi che sta valisetta. Ciao, ciao, chi della zia tu scos, via, via, via, via, via, a pesciam vers Curbetta, a pesciam vers Barege, Cedrian, vers Tesic, e drevia, un tratin, 30.000, a Parege, che vive, che mi solta, e la nebbia, e la multa, un mescios, un burdege, in Umbria, e se va, e se va, e la sera entra tanta, la sera che ven fuori di ca, che si invia e col so smursire la vien giò per in che a requiatre bileri, a quatà miseri, e la notte, pe che la gatona, fe con la patona, e va che te va, due vem, a tesin, a patrem, due sem, giò de là, vers Milan, vers Barege, giò de là, che squirò, Gesù Dio, u fieu, de gunec, a Parege, de gunec, a Parege, due son, un vive, barache, ciucate, fegament, dai, guarda, un burdegi in Umbria, de sedet su, de scantet, lingera, tusane ban de fera. Gamba de len, te vedet, descendenter, tram neger, gen sura genta leger, lel di di mort, de sedet. Turni dalla Bulona, turni di cimiteri, in mesa un sume neri, de basco che slandrona, de triunfa. La vita passa un carel, la vita sciuri, che sed un dona, che giubiana e che baia. Là di par del rondò, fermet un bot, la giò, sentela la lucaia, che la che va su bela. Cadorna per le feste, l'ha scritto la regina, la verve de Trieste, che il mandi in cartolina, bim bum bum, a rombo del canon. A Rusk e a Brigadella, sotto la nivulaia umida, pien de vin, canten sulla basura, canten a scarpagura. E m'hanno destinato al sesto fanteria per essere mandato alla macelleria, bim bom bom, al rombo del canon. A pos del sempionin, guardela là, la faccia del su, che la sequacia sotto al sopra puntin de nivul, sotto i dubi. Tusan, andem a nana, sotto i cuer de lana, sbarlusa sura i stubi. Di par della Bulona, gamba de len che sona, sbarlusa in mesa ai pubi, del stradun de Musoc, dretera una riana de feug, là, là, laggiù, che sanguana. Ma il general cadorna, il mangia, il beve, il dorma, bim, bum, bum, al rombo del canon. Canzon che riva toche bucon, es lontana di par de là, riana de sangue, che a poc, gut a gut, sui camin, sui cup, di lavoreri, de guerra, semineri de sced, de magazin, de campat, gut a gut, la cula sangue sfut, la sninca gasechin dell'ingegner titola, babeo che il fa grassa, sotto quella facciassa, e gutta sangue, cula sangue, sotto quella facciassa del su. Bim bum bum, al rombo del canon, che la se sbasa, russa come una pula, su chi che se morisna, là, can finì la guerra e se di uver, su ta terra, in maser, e carisna e scendera, che fa meia, dormen sotto una preia e scendere carisna. Passen i tram, scampanen, mola tanè, dai, brisaula, scisger e tempia, e a tavola canten e se sluntanen, sculta i cumpà del zio. L'el di di mort e Dio, l'el di mort e amen. Delio Tessa, Milano 1919. Voce di Annibale Covini Gerolamo. Creative Commons 4.0. Testo di Delio Tessa in libero dominio.